Bene, allora soprattutto grazie. Grazie a Carlo Alberto che ha avuto questa bellissima idea di invitarmi e in qualche modo di invitarci. Insomma, sono molto contento perché insomma era qualcosa che è nell'aria da un po', quindi fare una riflessione su ben 34 anni di attività. E ringrazio voi che avete innanzitutto dato vita allo studio Campo Boario con tutte le vostre nostre iniziative. E ringrazio voi che siete venuti oggi qui a sentirci. Per me è molto importante riflettere un po' su questo, un po' perché io sono legato alla memoria, mi piace di più ricordare che fare, quindi forse faccio in funzione del ricordo. E quindi tutto quello che vediamo è oggetto di memoria, quindi da un lato sì, pur essendo uno che progetta, poi forse sono più preoccupato della costruzione del passato che del futuro. E aspetta, mettiamo questa qui. Dunque, non so bene con che ordine iniziare, ma so che Marco mi ha chiesto di iniziare per primo perché purtroppo devo andare. Ho un impegno a seguire, quindi farà un intervento se non ci sono. Ma certo, sì. Per voi non ci sono. Ci dispiace solo che te ne vai, non dobbiamo mica per fino alle 7 ce la faccio, non è che parlerò un'ora, pensavo che magari si iniziava che so, tipo alle 6:30, allora dico parlo per primo perché ho paura. Sì. Però di questo ci eravamo spaventati. Infatti. No, cosa che mi permetterà poi di ascoltare anche. Come mi suggerisce Carlo Alberto, insomma introduco, ma così brevemente, voi relatori. E quindi parto da Marco Giovenale. Ci siamo conosciuti. Cos'è? Che anno era? Allora, c'era sicuramente prima della pandemia di sicuro. Allora, tu hai recuperato una fotografia in cui io sono venuto allo studio Campo Boario. Quando c'era Renato Barilli. Sì, ma addirittura una apparizione reciproca. Siamo apparsi alla rispettiva Madonna, non lo so, sì. Insomma, in occasione di una mostra, credo all'inizio degli anni 2000. Ah, ma certo, dei Panicon. Esatto. Panicon. Esatto. Quindi, quindi Alessandro Vesco. 2002, 2003, 2004. Qualcosa così. Pazzesco. Quindi è parecchio tempo. Sì. E poi c'è stata quell'occasione, sì, della rassegna di videoarte che Renato Barilli aveva curato a Bologna per un certo periodo e di cui ha fatto a sua volta rassegna, di questa rassegna, al studio Campo Boario. E lì io mi sono ritrovato con Giuseppe Carrera e che poi mi ha presentato te. Esatto, scusa. Sì. E insomma Marco, da quando ci siamo conosciuti, precocemente abbiamo iniziato a collaborare in vari modi, in varie forme, e nello studio Campo Boario diciamo, ha dato un contributo fondamentale per tutto quello che riguarda la scrittura di ricerca, ma anche la relazione che può esserci tra la scrittura di ricerca e le arti visive, perché l'opera di Marco che fondamentalmente scrive, ma è anche un'opera che si esprime attraverso la realizzazione di opere e ne abbiamo una qui proprio esposta. Io non ho memoria di qual è stato il primo evento, perché sono stati tanti, è ovvio che mi viene in mente esiste la ricerca e l'ibridine come due eventi diciamo rilevanti, ma insomma perché non parlare di Boario, certo. Perché non parlare di tante altre cose che abbiamo fatto insieme e che soprattutto tu hai proposto, curato. Quindi ti lascerei la parola perché la mia idea è quella che emergono un po' dalla memoria cose che abbiamo fatto, insieme e sarà abbastanza diciamo, naturale secondo me. Scusate, mi intervengo un attimo, non pensiate di dover dire tutto quello che avete fatto. Certo. È impossibile. No, perché no. Già tu hai slabbrato la cosa, non mi sì. Ricordo tu. Cioè, sì. Andiamo subito, dite una cosa fondamentale, esatto. Importante. Noi abbiamo un'ora a testa. Certo. Grazie. Anche due. Grazie, Carlo. No, perché credo, ah, tu Marco. Marco, quant'è che sei venuto la prima volta? Mi ricordo. Come cioè, lui, veramente... lui è un raffinatissimo critico, ma è anche un giornalista. Quindi... No, cioè, è fondamentale. Io ho bisogno. No, lo so, però ho bisogno di qualcuno che mi riporti all'ordine, che tendo diciamo, al disordine come in modo sistematico. Un'immagine che rappresenti, che documenti il vostro. Intervento in quello spazio e che descriva a chi non lo conosce quello spazio, poi ci saranno altre occasioni per fare, come dire, la cronaca, la referenza. Sì, no, saranno dei flash. Ma sì, assolutamente. Il primo flash. Ma il primo flash, con una luce un pochino lunga, però perché qualcosa devo dire, perché di fatto diciamo, aumentiamo il tempo di esposizione, abbassiamo il flash. No, è che una cosa molto bella è che risuona anche con l'iniziativa qui, con il ciclo di incontri degli artisti che sono anche curatori, è il fatto che lo studio Campo Boario Alberto sono in sintonia singolarissima con tutta un'area di scritture sperimentale e di ricerca in cui effettivamente il lavoro spesso diventa collettivo, e quindi l'idea che incarna lo studio Campo Boario e che ha sempre portato avanti Alberto è quello di una diciamo così di un andare avanti insieme, quindi non soltanto non c'è il piedistallo su cui si mette l'artista, il letterato, il poeta o il musicista e tutti tacciono. C'è una sorta di collettività in azione. E l'ibridine, che è la prima iniziativa di cui Alberto mi ha chiesto di parlare, è un po' l'esempio di tutto questo, perché è stata una rassegna di libri che è iniziata nel 2022 e che ha e poi si è replicata nel 2017. C'è stata una prima edizione. Primissima, è vero, è vero. E forse la curavi solo tu quella, o c'era anche Domenico, con Domenico Adriano. Infatti, ecco, due nomi che io farei insieme ai nostri assolutamente sono quelli di Domenico Adriano e di Giuseppe Carrera, perché di tante iniziative che si sono fatte insieme che verranno il 13, ecco, Giuseppe Carrera soprattutto per l'ambito dell'arte, del collezionismo, è stata una figura fondamentale, e anche dell'editoria, collezionismo di arte e di libri rari. E Domenico Adriano è stato il co-curatore, prima curatore insieme a Alberto nel 2017 e poi dal 2022 in avanti per 3 anni di questa libridine, l'idea, il nome che gli è stato rubato anche poi successivamente abbiamo scoperto è di Alberto, e questa libridine ha portato un programma molto molto molto ampio. Io avevo preso alcuni appunti, ma insomma adesso non voglio eccedere nelle annotazioni, sicuramente due ne cito. Il poeta della lavagna, cos'era? Non mi ricordo questo. C'era stato quello, ma cioè, la stessa esiste la ricerca, che è la seconda cosa di cui parlerò, nasce in quel contesto, perché il 16 giugno del 2022 abbiamo fatto questo grosso incontro con una quantità di autori che venivano un po' da tutta Italia. Cito soltanto due incontri che sono stati fatti nel contesto di Libridine, perché poi molti sono stati fatti per esempio con la casa editrice Il Labirinto, a cui sia Francesco D'Alessandro sia Domenico Adriano collaborano, sono iniziative loro, con scritture non di ricerca, e quindi Libridine in qualche maniera metteva insieme sia diciamo l'ambito, l'area più sperimentale, sia l'ambito diciamo più lirico della scrittura che si fa a Roma, ma in Italia in generale. Gabriella Pace per esempio è intervenuta, lo stesso Francesco ad Alessandro ha presentato alcuni suoi testi. E due in particolare eventi mi piace ricordare, che sono uno un incontro in cui Luigi Ballerini, autore affermatissimo ormai diciamo, tra i principali poeti contemporanei, a cavallo tra la ricerca e una eredità che possiamo ricondurre a Elio Pagliarani, ha presentato una sua antologia personale, non un'antologia libro, ma proprio ha fatto una scelta di testi da presentare e da leggere in occasione di questa ospitalità che Alberto ci dava. E la cosa bella è che è stato, siccome era una bella giornata, eravamo come oggi nel giardino davanti allo studio Campo Boario, che ha anche questa qualità, oltre ad avere quella di raccogliere le persone, ma di raccoglierle a seconda della stagione dentro o fuori. Quindi è stata una bellissima occasione quella. Un'altra occasione in cui in qualche maniera il nome di Ballerini ritorna, perché lì era presente, anche se non fisicamente, come traduttore, è stata la presentazione del libro di Charles Bernstein, che è uno dei più grandi autori statunitensi di ricerca letteraria in attività dagli anni 60-70, la cui prima antologia italiana è stata pubblicata all'edizione del Verri proprio nel 2022 ed è stata presentata forse a Roma per la prima volta proprio allo studio Campobuario. Poi ha avuto un'altra presentazione all'Istituto di Studi Americani lì a Via Caetani. E questo, insomma, credo che siano due momenti, elementi molto importanti. E qui vengo a Esiste la ricerca, perché il 16 giugno del 2022, quindi nel primo anno dell'iniziativa Libridine, si è creata la possibilità di fare un incontro sulle scritture di ricerca. Addirittura Esiste la ricerca aveva un punto interrogativo alla fine, quindi esiste la ricerca? E grazie ad Alberto che abbiamo sostituito quel punto interrogativo con un quasi punto esclamativo, comunque un punto fermo, sì che esiste, ma è grazie a questo primo incontro in cui abbiamo riunito insieme autori che venivano un po' da tutta Italia, critici, poeti, qualcuno purtroppo che non c'è più, come Alessandro Broggi, e questa è stata un'occasione molto bella per, appunto, dal punto di vista teorico, affrontare alcuni nodi che la ricerca letteraria comunque sembrava essere messa in condizioni di, come dire, mettere tra parentesi. Spesso la ricerca letteraria viene, come dire, viene tacciata di essere troppo analitica, troppo carica di elementi di poetica, è il contrario per quanto riguarda invece la ricerca più recente, e invece l'occasione di Esiste la ricerca è stato un momento proprio per tirarli fuori questi elementi di poetica. Si uniscono queste cose molto, in maniera molto interessante, in una rivista che voi trovate anche lì sul banchetto. Perché? Perché Esiste la ricerca, diciamo, in Esiste la ricerca il lavoro principale che è stato presentato è stato quello, tutto sommato, dei, ormai nel 2022, contiamoli dal 2006, di tutti gli anni, della sperimentazione fatta da un sito che si chiama gamm.org, dove abbiamo tradotto, appunto, Charles Bernstein e tantissimi altri autori statunitensi a partire, appunto, dal 2006, e tantissimi autori francesi, e abbiamo proposto in maniera assolutamente gratuita tutta una serie di scritture, appunto, che in Italia non venivano tradotte e avevano invece negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, in Australia e dovunque si parlano le due maggiori lingue europee, che sono, appunto, l'inglese e il francese, se vogliamo, anche qualcosa di tedesco, dove effettivamente abbiamo presentato, portato in Italia tutta una quantità di autori. E la rivista L'Immaginazione, che è una rivista che esce dagli anni 80, è pubblicata dalla casa editrice Manni, più di 10 anni fa ci ha offerto uno spazio che noi abbiamo chiamato Gammatica, in cui noi presentiamo di volta in volta, la rivista è bimestrale, un autore che può essere italiano oppure tradotto. E tra i tanti autori di scrittura e di ricerca, io, secondo me, è assolutamente legittimo annoverare lo stesso Alberto, che ovviamente qui è timidissimo, per cui si rifiuterà di leggere lui i suoi testi, e a questo punto al suo posto lo faccio io per chiudere il mio discorso e lasciare la parola agli altri. Questa rivista comunque la trovate in una copia che così è a disposizione per essere letta all'entrata. Vi dico che, se volete, Esiste la ricerca è diventato anche un blog, questo ormai già da un anno e mezzo, perché ha avuto un'altra serie di incontri. Abbiamo fatto 2 incontri a Milano, al Teatro Litta, due, e un altro a Napoli, in un altro teatro. E in queste occasioni, grazie a queste occasioni, ma soprattutto grazie all'iniziale occasione che ci ha dato Alberto, è nato questo blog, che è ospitato dal sito del Teatro Litta, quindi MTM, Manifatture Teatrali Milanesi. Quindi all'interno del sito del teatro c'è questo spazio che ogni settimana propone un autore sperimentale. E questa settimana c'è Alberto D'Amico, che compare per la seconda volta nel blog, e compare anche in questo numero della rivista. La rivista è uscita, questa qui, nel settembre-ottobre 2024, e vi leggo un paio di... E comunque è l'ultimo numero uscito? No, perché no. Esce bimestrale, certo. E quindi sì, mentre l'ultimo post fatto dal blog Esiste la ricerca c'è, quindi se adesso andate in rete e cercate Esiste la ricerca, Alberto D'Amico lo trovate subito. Questa qui è una rivista che è uscita, questo fascicolo è uscito l'anno scorso. Poesie stocastiche. Testimoni di Geova, Niku, Gyoza, Arancioni, Spicy, Salmon Roll, Scientology, Ichiban Roll, Buddhisti, Mara Roll, Numerologia, Yasai, Tempura, Costellazioni, Familiari, Tiramisù, Matcha Yoga, Hare Krishna. ma che non mi sono accorto di aver visto la foto che ti va bene così come è venuto in un altro giorno, in un altro di più di una persona. Te lo ricordi? Di un po' di più di una persona? Ma non mi sono accorto che la gente non ha detto di non inserire i nomi di tutti gli amici miei, amici di mio fratello e il tuo profilo e non di un po' più tardi a te, lo invio per di più tardi a te. Ma che non si può fare? A te lo ricordi di un mio compagno, mi piace il mio amico di una persona, a te lo invio per di una volta che non lo trovo molto utile per efficace, per seguimi. E ti dico a tutti voi, come stai oggi pomeriggio? Ho collezionato un abbraccio, a presto spero. Sì, è una bella foto di una mia compagna di classe, di più di una persona, che hai fatto un abbraccio, anche a te lo invio per di una mia compagna di classe. È una piccola selezione. Soprattutto bravissimo Marco, come leggere, esatto. Mi dà un ritmo da rap, bravissimo. Invece di quelle che... È stato un senso per me. non lo sapevi. Di quelle in rete me ne leggo soltanto due, una leggermente più lunga e una che fulmine. E quella più lunga dice così. Allora, le poesie si intitolano... Allora, quelle sulla rivista, talune poesie. E questa invece... Talune poesie. Invece che alcune abbiamo scherzato così. E questa sul sito invece talune, parentesi, altre poesie. Roma, 15 gennaio 1962. È un'attrice italiana, vincitrice di 7 David di Donatello, Margherita Bui, 7 Nastri d'Argento, 5 Globi d'Oro, 13 Ciak d'Oro, tra le migliori attrici italiane. Ha recitato nelle serie televisive e in varie produzioni teatrali, cresciuta nel quartiere Coppedè, prima di tre sorelle, figlia di un dirigente dell'unità sanitaria locale, il suo trisavolo paterno francese era un ufficiale medico dell'esercito napoleonico, dopo alcune apparizioni spot pubblicitari esordisce al cinema con La seconda notte. Torna a lavorare con Luchetti nel film accolto tiepidamente dalla critica, ma viene elogiata la prestazione dell'attrice. La sua interpretazione di una giovane attrice nevrotica, il ruolo di un'editrice che molesta sessualmente un suo dipendente, il complesso ruolo della suora con la maternità, la vedova che scopre l'omosessualità del marito defunto, moglie in crisi coniugale, madre di una famiglia borghese, premio per la migliore interpretazione femminile al Moscow. Una psicologa che prende in cura il pontefice, fantasma di un'attrice, una preside di liceo, un'ispettrice al Belghera, una regista, alter ego, è ospite fissa nel programma radiofonico, si sposa nel febbraio per poi divorziare nell'estate, voce di Lilli in Lilli e il vagabondo. E poi l'ultimo testo, che è un distico, poi lascio a voi la parola, io trovo un testo meraviglioso da scolpire nel marmo, il bambino giocava e quell'uomo gridava, state fermo. Ecco, allora vai, sei tu il mazziere, vai. Dai le carte. Io direi di procedere in questo modo. Abbiamo questo sole che ci condanna. Siamo i numeri della meridiana. No, io non vi vedo, quindi è meglio. Siete bellissimi, però se mai dovessi avere qualche problema, non so, di timidezza, non vi vedo e quindi è come se parlassi da sola, insomma. Allora, ma tanto io sto in cantina, vai. Con Michele Abbeckis, ci conosciamo da tanto tempo, però hai realizzato la prima mostra nello studio Campobuario di recente, nel 2023. Sì. E si chiama La città inservibile. E ti chiederei di parlare di questa mostra, del perché hai scelto lo studio Campobuario. Certo. Allora, La città inservibile nasce da otto donne strampalate, quattro artiste, e una critica d'arte e tre donne che non si occupano di arte. E ci siamo ritrovate, ho avuto questa idea, mi piaceva l'idea di interrogarci tutte insieme sul perché le città sono maschili, nel senso, riprendendo la descrizione della città che ne dà Apollo d'Oro, quindi il grande architetto di Traiano, che dice ci sono, costruirò il porto, poi il mercato, e poi le case, poi i monumenti, e poi le piazze, e poi, perché tutto deve essere a misura d'uomo. E a noi questo a misura d'uomo non c'era tanto piaciuto, perché è vero, sono a misura d'uomo e quindi non funzionano. E incontrandoci e parlando un po' sul serio, un po' così, un po' in modo etilico, la parola che era rimasta sempre al centro delle nostre riflessioni era inservibile, cioè inservibile per quello che noi pensiamo debba essere una città, cioè una città di relazioni. Eravamo otto, siamo otto perché continuiamo a vederci, a parlare, eccetera. Le artiste sono Sonia Andresano, Francesca Balducci, Matilde Cenci e Priscilla Pallante. Le curatrici di Sonia sono stata io, di Francesca è stata Daniela Angelucci che insegna estetica a Roma 3, di Matilde Cenci è stata Federica Castelli che insegna filosofia politica sempre a Roma 3, di Priscilla Pallante Serena Olcuire che insegna urbanistica a Roma 1. E quindi appunto, come dire, studiose di genere ma non studiose d'arte. E dopo tutta una serie di conversazioni dove ognuna c'aveva, cioè, c'era sempre una con il Covid, quindi c'era sempre una retroilluminata, perché abbiamo cominciato nel 21 a parlare di questa cosa, abbiamo deciso più o meno di formare delle coppie, le prime conversazioni sono state sempre a 8 e ci siamo guardate e abbiamo detto però è inservibile, però quello che noi non vogliamo fare è dire che è inservibile per, come dire, per un problema securitario, lo sappiamo che è inservibile anche per quello, però vorremmo fare questa, rendere questa inservibilità visibile, ma per renderla visibile dovevamo scendere sottoterra e quindi abbiamo cominciato a pensare a dei luoghi, andavamo in giro sempre tutte otto, arrivavamo e diciamo no, non ci piace, no, non ci piace, fino a che ho detto a Alberto, ma non è che possiamo venire, Alberto, a vedere le tue cantine, dove peraltro io avevo già visto delle cose, una, tra l'altro una bellissima di Isabella che era lì. Siamo rimaste folgorate, siamo scese lì sotto e abbiamo detto abbiamo trovato un luogo inservibile per la città inservibile. E quindi lì sono nate le quattro mostre di questa mostra. E Sonia nella spelonca, dove appunto ha creato trastorno, che è una parola spagnola che significa tremore in qualche modo, ma è il tremore non della persona, è il tremore della terra, cioè quando ti si muove la terra sotto i piedi, in senso figurato e in senso vero. Nelle tre salette, diciamo, meravigliose, piene di archi e oculi, ha lavorato Priscilla Pallante, che lavorava su un progetto molto interessante di dialogo con l'intelligenza artificiale, in cui partiva da una app che si chiama, e che esiste, la potete trovare, che si chiama Word, e che dovrebbe aiutare le donne a non andare in luoghi non sicuri. Ma noi ci siamo posti un problema, ma se arretriamo noi dai luoghi non sicuri diventeranno sempre più insicuri. Lei è stata anche molto coraggiosa perché è andata nei luoghi più insicuri segnalati da questa app con degli elettrodi a verificare appunto che cosa succede quando si ha paura. E nella mostra ha messo i grafici della sua paura e poi ha messo anche le immagini, cioè ha dato all'intelligenza artificiale descrizioni di luoghi di Roma e l'intelligenza artificiale ha creato delle follie. Io ho anche portato il libro delle follie, nel senso ha risposto creando dei paesaggi che poi potete leggere, sono la via Collatina, sono Colleoppio, sono il parco di Centocelle. In realtà in queste foto sembravano luoghi minacciosi come un romanzo gotico. L'altro progetto era quello di Francesca Balducci, che ha creato delle mappe e queste mappe erano mappe, figurati, ben arrivata, erano mappe sentimentali in qualche modo. Non conviene perché, scusate, devo stare. Queste mappe sentimentali che erano cadute, discese, e appena prima e appena dopo. Che significavano? Significavano che loro si sono invitate reciprocamente a camminare per la città in un percorso sentimentale, cioè ti porto nelle mie zone della città dove io ho avuto esperienze da bambina, da ragazza, eccetera, sentimentale. Hanno attraversato insieme la città scoprendo appunto cadute, ma cadute vere, nel senso si sono trovate ai loro 5 minuti dopo che un operaio era caduto da un'impalcatura ed era morto, si sono trovate nelle manifestazioni dei movimenti per il diritto all'abitare con dei vecchi sbattuti per strada, insomma hanno verificato sentimentalmente e visivamente che la città è inservibile sotto molti punti di vista. E Francesca ha fatto delle mappe sempre più semplificate di questa inservibilità. Il progetto di Matilde Cenci era un progetto anche quello che si chiamava Armillaria. Voi sapete che l'armillaria è un fungo che si allarga, si allarga, si allarga e stabilisce, come ci ha insegnato anche Donna Haraway, diciamo crea parentele che non si conoscono, no? Nel senso che poi allargandosi incrocia e si incrocia con altre vite, e loro hanno fatto questo progetto appunto sulla città del desiderio, cioè come desidererei una città senza la paura di stabilire delle relazioni. Loro hanno fatto una cosa abbastanza coraggiosa, ma non era quello il punto, e cioè ritrovarsi a Piazza Vittorio e dintorni alle 3 di notte e raccontarsi l'una con l'altra in uno dei posti che di notte diventa uno dei meno sicuri di Roma. Queste erano le 4 mostre. Io sono convinta, il progetto ha avuto, non saprei dire se nostro malgrado o perché ce l'abbiamo messa tutta, ha avuto molto successo. La sera dell'inaugurazione a un certo punto Alberto ci ha dovuto dire: mandate via questa gente, cioè non se ne può più, perché continuava a arrivare gente. E ancora, insomma, le cantine di Alberto continuano ad avere molto successo. L'ultimo 2 settimane fa, invitata tra l'altro appunto da un master che si chiama Ri-Abitare dell'Università di Roma 1, di un master di architettura, dove sono stata invitata appunto a parlare non solo della città inservibile, ma delle cantine come modello di, diciamo, di intervento non intervento, cioè un intervento che non è l'orribile riqualificazione che oggi spacciamo come riqualificazione e spesso è semplicemente un'operazione finanziaria, ma il riabitare grazie alle idee. Ecco qua. Grazie Stella. Siamo state fortunate perché parlando con una amica che è anche una casa editrice mi ha detto: ah, ma è carina questa roba, facciamoci un libro, ed è venuto fuori un bel libro, devo dire, che racconta appunto le cantine e le operazioni dentro le cantine. Eccolo. Perché una delle peculiarità del studio Campo Operaio, al di là del proprietario e factotum, è proprio quello spazio. Ma te lo faccio vedere. Sembra che è proprio, cioè, quello, lei, Michela, ha evidenziato il valore delle cantine, ma è tutto il complesso quadro milanesco che è interessante e che Alberto ha reso unico, questa contaminazione tra alto e basso e servibile e inservibile, perché poi quello dell'inservibilità in questo caso è anche un elemento, è una dote, no? No, noi abbiamo dimostrato che quello è servibilità. Renato Bruno, dai. A un certo punto ha citato addirittura il rizoma, riferendosi agli spazi, perché certo. Insomma, per chi non lo conosce, ma qui almeno lo conoscete tutti, lo spazio nasce da una piccola parte che è la parte del cortile, con la prima stanza subito dopo il cortile, ma nel tempo poi si arricchisce delle cantine, di una parte più grande che era un ex negozio, e con una parte seminterrata che è diventato quasi un cineteatrino stabile, e anche di due appartamenti, uno in particolare l'appartamento di mia zia, dove gli artisti innocenti, che verranno credo 10, quindi, hanno realizzato due edizioni di Costanza Zimmer, che è un, insomma, è una performance molto, molto movimentata, molto colorata. E poi un altro appartamento pure che è stato messo a disposizione, dove abbiamo addirittura rimesso in scena l'ultima scena dell'ultimo film di Pasolini, di Salò, ma insomma un altro di questi spazi, quindi non c'è un unico spazio dove le cose si realizzano, ma c'è la possibilità di... E qui verrebbe bene molto parlare di Patimon, ma è un'anticipazione, Roberta Melasecca, con la quale abbiamo realizzato diverse mostre, in particolare Monochroma Color, che è stata la prima, poi Sedia Sediola, ma poi anche Piramide Sistina Rupestre. Ma non solo, oltre alle mostre di cui ci parlerai, insomma, sono molto affezionato ai nostri talk, di cui tu, insomma, racconterai, insomma, come nascono. E... Roberta. Allora, sia le mostre che i talk nascono perché nascono da semplicemente dal rapporto tra me e Alberto, principalmente su WhatsApp e per telefono. Cioè la mattina presto, adesso un po' non tanto più adesso, ma prima, alle 7 ci sentivamo la mattina e iniziavamo delle discussioni filosofiche su cui ci dibattevamo e sempre in contrasto, mai d'accordo. Che continuavano per mesi, cioè iniziavamo a parlare, non so, intelligenza artificiale, di cui abbiamo fatto un talk e abbiamo parlato per un mese e mezzo, due mesi, avendo opinioni totalmente opposte. A un certo punto ci eravamo un po' stancati di essere unilaterali, abbiamo detto senti, abbiamo finito di parlare. Facciamo parlare gli altri. E tutti i talk sono nati così, ovvero sull'umorismo, etico umorismo, etica e arte, insomma, e tutti sono nati in questo modo, ovvero da uno scambio di idee che poi non ci sembrava più esaustivo perché si esauriva solamente con noi due. Il sistema binario non era sufficiente e quindi sentivamo l'esigenza di ampliare la discussione, avere più voci, più prospettive anche, o anche opposte alle nostre, che però ci venissero in aiuto alla nostra discussione, non per trovare un punto di congiunzione ma per intensificare ancora di più queste visioni che poi sono rimaste diverse, perché le abbiamo mai fuse. Quindi tutti i talk sono nati sempre così, da questa esigenza di confrontarci su dei temi che c'erano molto cari, su cui comunque ci andavamo a spendere una parte della nostra vita, che era quella mattutina importante. E anche le mostre sono nate in questo modo, ovvero le mostre sono nate sempre dalle idee di Alberto, perché sia Monochroma Color, sia Sedia Sediola, sia Piramide Sistina, sono idee che nascono, che comunque erano nell'aria. E poi abbiamo anche quelle, le abbiamo un po' sviluppate sempre attraverso questo confronto, attraverso il dialogo, e poi le abbiamo condivise con gli artisti che abbiamo invitato, perché non è che le ho invitate solamente io gli artisti, ma e è stato diversi. Per esempio Michela parlava di questa installazione di cui si è rimasta folgorata di Isabel, che stava proprio nella cantina, nello spazio quello più insomma Silvia. Anche quello sì, per cui insomma questo dialogo non solo nei talk ma anche nelle mostre è diventato anche un dialogo con gli artisti che hanno cominciato a lavorare semplicemente insieme a noi sulle tematiche che abbiamo proposto. Credo che tutte quante le mostre sono state belle e anche che ci hanno dato degli spunti di ragionamento interessanti. Quello della sedia era più connesso al tema dell'abitare, della città, e quello di Monochroma Colori ci sono particolarmente affezionata, forse è stata la prima mostra che ho fatto, che abbiamo fatto io e Alberto insieme, ed erano delle visioni inedite sul tema del colore, quindi comunque quello che a me interessa raccontarvi e dirvi non è stata la mostra in sé per sé, il Monochroma Color oppure Piramide Sistina o i talk, cioè parlarvi della singola cosa, ma come nasce un progetto. Nasce perché c'è l'esigenza di dialogare, quindi di non avere una visione unica di una cosa, di una tematica, ma di ampliarla attraverso il dialogo. Quindi questa è la cosa più importante che ho visto poi anche nel tempo su tutto quello che, su tutte le attività di Campo Boario. Tutte le attività di Studio Campo Boario erano basate su questo cardine fondamentale, quello della condivisione e del dialogo, di tante visioni diverse, anche contrapposte, perché la diversità è effettivamente una grandissima ricchezza, noi l'abbiamo sperimentato, l'essere talmente differenti nelle visioni anche dell'arte stessa ci ha portato poi a invitare artisti completamente differenti con delle poetiche totalmente diverse, e poi hanno avuto successo anche per questo motivo. Grazie. Quindi quello che mi piaceva mettere in evidenza era questa varietà di idee e di visioni che circolano all'interno del Studio Campo Boario. Grazie Roberta. Posso fare una domanda? Le vostre conversazioni, sia audio che... le avete salvate? No. Ragazzi. Forse la chat sì. La chat mi si è perso... la chat il cellulare io. E quindi una volta mi ha cancellato tutte le chat. Quindi non c'è più niente. La mia è fastidiosissimo. No, mi piace molto quello che ha detto Roberta, proprio perché ha evocato questa dimensione corale, polifonica, dissonante anche, perché insomma questo sta un po' alla base così di questa mia visione. Una cosa mi sono dimenticata di dire, in tutto questo sistema di contrasto l'elemento fondamentale era il divertimento anche, cioè nel senso non pensate che tutto questo era una cosa seriosa, no certo, era seria ma non seriosa, okay. Noi ci siamo divertiti un sacco, veramente tanto, e quindi... Tutte queste mosse sono tutte a Campo Boario. Sì. Ci siamo proprio divertiti tantissimo, quindi anzi devo dire che grazie ad Alberto ho scoperto che ho anch'io un senso dell'umorismo. Non lo conoscevo. Io ho un po' di difficoltà in effetti a essere serio, veramente ammetto. Io essere divertente. Ammetto. E quindi no, funzionano appunto sempre i contrasti, perché per esempio adesso prima di introdurre Massimo evoco un momento Tino Franco, che è una persona che non c'è più tra noi, con la quale abbiamo condiviso sicuramente 7 anni continuativi